Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, giovedì scorso, durante l'assemblea annuale di Confindustria, la presidente Emma Marcegaglia ha suggerito o ricordato al governo di alzare l'età pensionabile, in quanto siamo il paese con la spesa sociale più squilibrata. L'unica via, secondo la bella e brava Emma, è quella di ritardare il ritiro dal lavoro. Ma prima di seguire questa via, ritengo eticamente e moralmente doveroso e urgente eliminare la vergognosa agevolazione di tutti i parlamentari ed ex parlamentari, i quali, come oramai tutti sappiamo, maturano una ricca pensione dopo soli 2 anni e mezzo di legislatura. Eliminiamo anche i casi eclatanti come quello del commesso del Senato che si è congedato dal mondo del lavoro a 52 anni con 8.000 euro mensili di pensione. E utilizziamo queste risorse per non vedere più persone disabili e sole percepire pensioni da 252 euro. Il silenzio e l'indifferenza di governo, opposizione, sindacati e Confindustria è per me imbarazzante e dovrebbe turbare l'animo di ogni cittadino italiano. E pensare che se un qualsiasi candidato promettesse prima del voto una vera soluzione, otterrebbe una valanga di voti. Marco. Dopo aver assistito ai conati d'odio anti-berlusconiani di questi giorni, dovrò, con il voto alle europee, sostenere ancora il Premier. Non è fantastico, e lo so. Vorrei che corresse verso la costruzione di un'Italia più meritocratica e libera, e non lo fa. Vorrei che operasse un taglio delle tasse, e non lo fa. Lui fa poco in questa direzione. Purtroppo, però, tutti gli altri fanno molto in direzione esattamente opposta. Alex. Berlusconi dice che basterebbero 100 deputati e tutti gli danno addosso. Ma perché? È l'unica cosa saggia che gli ho sentito dire da tempo. Mi sono perso qualcosa? Gianluca, Roma. Egregio direttore, com'è possibile che nessun commentatore abbia ricordato al Presidente del Consiglio che l'operazione di riduzione dei parlamentari era già stata fatta dal precedente governo, però a maggioranza semplice? Mi ricordo che la riduzione dei parlamentari, accompagnata dalla modifica dell'elezione del Senato su basi federaliste o regionalistiche, sarebbe diventata operativa solo dal 2015, dopo 2 legislature. Era accompagnata da altre importanti modifiche della Costituzione, che ricevettero una solenne bocciatura, con un 62% di no, al successivo referendum di giugno 2006. La riduzione dei parlamentari troverebbe facilmente l'accordo degli elettori se presentata dalla maggioranza qualificata del Parlamento, cioè oltre i 2/3, come indicato dalla Costituzione. Non si perda altro tempo se questo è l'obiettivo, se no si taccia. Agostino. Per almeno un trentennio abbiamo avuto una classe politica grigia, autoreferenziata, che si reggeva sul «lei non sa chi sono io». Studenti e popolo tutto, indignati, cercavano, con poca convinzione a dire il vero, di spodestare questi vecchi tromboni. Per anni ho sentito dire che la politica doveva avvicinarsi alla gente, che doveva essere come la gente normale. Per anni ho sentito nell'aria questo fastidio diffuso nelle persone normali, allorquando si intravedeva una qualche forma di vomitevole privilegio di casta. Per anni ho sentito dire che i politici sono tutti uguali, fatti con lo stampino, grigi, vecchi, distanti, fuori dal tempo, dei privilegiati parassiti che rubano lo stipendio, eccetera. Oggi c'è un signore che, a parte i miliardi di proprietà, non fa nulla per evitare di non essere se stesso. È stato eletto con una grande maggioranza. Non avrebbe bisogno di rubare uno stipendio. Diciamolo, qualcosina ha fatto. Canta, scherza, racconta barzellette, lavora e, ovviamente, gli piacciono le donne. Un chiaro esempio di una persona che vive in quell'agognato paese normale di D'Alemano, ricordo. Ma non va bene. Siamo mica matti? Uno normale che guidi il paese? Uno che, se incontra un qualcuno qualsiasi, addirittura gli stringe la mano? Uno che, se gli chiede una foto, se la fa fare? Addirittura se gliela chiede un cuoco qualsiasi? Follia. Un politico non deve raccontare barzellette. Forse potrebbe raccontare frottole facendole passare per verità. Un politico non deve cantare, tranne che se non in un tribunale e a patto che canti la canzone che vuole ascoltare il giudice di turno, a seconda dello schieramento. Un politico non può esercitare la propria istintiva e naturale propensione alla sessualità, nemmeno scherzandoci sopra. Ma può andare coi viados, purché lo faccia di nascosto. Perché tutti oggi vogliono che Berlusconi sia come da sempre non volevamo che fosse e non vogliamo che sia il politico di oggi, cioè diverso per definizione di casta, lontano dalla gente, col sedere inchiodato alla poltrona a godersi i soldi rubati qua e là. Franceschini dice che Berlusconi non può diffondere fiducia ed entusiasmo perché è fuori dalla realtà e non può scherzare perché non si preoccupa delle condizioni del paese. Ho come la sensazione di non sbagliarmi pensando che Franceschini sia una specie di manna dal cielo per la destra. Non fa altro che deridere e dare contro a qualsiasi iniziativa del governo. Credo sia vittima, come del resto lo sono stati tutti gli ultimi antagonisti, di una specie di spirito di persecuzione, di angoscia dovuta al fascino calamitoso emanato da Berlusconi. Rutelli ne fu l'antesignano, ma D'Alema, Prodi, per finire sui Travaglio e udite udite anche Santoro, tutti crepano semplicemente di invidia. Oppure sono letteralmente affascinati dall'uomo e ne parlano male perché vorrebbero essere lui. Pino. Buongiorno, direttore. Le scrivo dopo aver ascoltato la risposta che lei ha riservato ad un ascoltatore riguardo le polemiche imperiture che riguardano l'introduzione dell'euro. Invero, credo che a suo tempo, al momento del trapasso, non fu fatto altro che un adeguamento dei prezzi italiani a un livello un po' più europeo, a tal punto che se prima del 2000 si vedeva tornare qualcuno da paesi che venivano descritti come costosi, mi viene in mente la Francia, ora ci si lamenta poco di questo, perché in realtà le differenze si sono parecchio assottigliate. Orbene, è innegabile che i prezzi siano cambiati dopo l'entrata dell'euro. È probabile che qualcuno ci abbia sguazzato. Mi vengono in mente i grossisti, che hanno comprato in lire e rivenduto in euro. Mi vengono in mente le Poste Italiane, che hanno subito trasformato le 800 lire in 80 centesimi. Ma se lei vuole proprio farmela buttare giù la pillola, basterà dirci che in fondo ciò che conta è il valore assoluto? Si ricorda la tentazione di tagliare 3 zeri alle 1000 lire? Beh, è stato molto più facile farlo con l'euro, con un vantaggio in più. La trasformazione da lira in euro è avvenuta con rapporto 1 euro uguale 1000 lire, solo per ciò che conveniva, affidando poi alla copertura del famigerato mercato gli aumenti, che poi sono risultati incontrollabili e utili a chi aveva la capacità per approfittarne. Giovanni. Gentile direttore, si continua a parlare della crisi economica, ma in concreto mi sembra che di provvedimenti veri e significativi il governo italiano non ne stia prendendo. È vero, c'è stato qualche aiuto per l'estensione della cassa integrazione, ci sono stati gli incentivi per le auto e così i provvedimenti per le banche, ma per la generalità dei cittadini consumatori si è fatto poco o nulla. E intanto quello che cresce è solo il dibattito tra ottimisti e pessimisti, tra chi dice che la crisi è superata, come fa il governo, e chi invece, come i sindacati, dice che il peggio deve ancora venire. Dove sta la verità? Alfonso. Caro Alfonso, in casi come questo, più che la verità, che potrebbe riguardare solo il passato, contano le interpretazioni che aiutano a guardare, se possibile, a costruire il futuro. E allora, paradossalmente, possiamo giudicare le politiche contro la crisi secondo una prospettiva un po' diversa. È vero che si è fatto poco per contrastarla, ma è altrettanto vero che per fortuna non si è fatto nulla per aggravarla. Non è questa solo una battuta. Se si rileggono le cronache della grande crisi del 29, si può osservare come gran parte degli esperti sottolineano che molte delle misure adottate allora ebbero proprio come conseguenza quello di aggravare la crisi. Si alzarono i tassi di interesse, si crearono barriere protezionistiche, si lasciarono fallire le banche. In questa occasione si è tenuto conto degli errori del passato e per ora si è evitato il peggio. Certo, si poteva e si può fare di più e meglio. Coloro che rimarcano che non siamo in completa democrazia perché ci sono le liste bloccate, forse non sanno che tra i 27 paesi che voteranno per rieleggere il governo europeo, ben 10 non esprimono preferenze, mentre noi ne esprimeremo anche 3. E questi sono Portogallo, Spagna, Francia, Regno Unito, Ungheria, Romania, Grecia, Germania, Lettonia, Estonia. E poi c'è l'Irlanda che non ha liste. Donatella. Per evitare che le squadre a vincere lo scudetto siano sempre le stesse, la formula è molto semplice. Bisogna mettere un tetto alle spese. L'hanno fatto nell'automobilismo, non si capisce perché non lo si possa fare anche nel basket o nel calcio. Ovviamente è una regola che dovrebbe essere estesa a tutta Europa. Sarebbe bello vedere squadre come il Montegranaro, il Chievo, vincere il campionato. Lettera firmata. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.